Midley Live 2012, a cura dei fratelli Forino, Big Felice Caccavale, Gaetano Gegnoso Babà e Paolino Di Somma. Buongiorno Nola! Salumiere 2012! Famiglia Napolitano! Viva Nola! Presentiamo il nostro staff! Felice Forino! A cantare per voi Paolino Di Somma e Gaetano Gegnoso in arte babà! Dedicata a chi porta negli occhi. Allora comitato, tutti con le mani, tutti! All'altare la patria pareva sonnare, mentre un giovane nono con una canottolina voletta firmare. La palla dove fu scritto turiste vocale. Che onore per me avete rappresentato i capi paranza della mia gloriosa città. Otagata, Wayu, va piace Otagata, la novità dell'anno! Forza fantastica, famiglia Napolitano, Salumiere 2012, nuova spalletta! Somma! Folli tu, Yagamma! Applauso e popuia dallo staff Salumiere 2012. Auguri! E su questo brano voglio fare un ringraziamento personale all'Orchestra Forino e all'Agglomerato Zero. Prova il microfono, papà sintetico, chiede subito al pubblico di essere energico mentre Forino dedica ai tantissimi fan. Nuova esibizione che tra poco è pronta a fare. A sto aglione mo ve lo presento subito, non prima di aver detto che ha un futuro in palcoscenico. Di somma il nome è chi subisse agglomerato e nato applauso a conquistare. Ascoltate bene questa canzone. Troppi tigri d'esibizione a presentare. La soluzione alternativa non la ce l'ha. Nella fantastica la luce li troverà. In fondo al tunnel nero dove resti tu. E quando esci giù, segui la logica di papà. Io sono lontano e canto per te. Tente. Sono a casa e mi sento re. Visto buona si vego sole all'imare a camera. Ma forse manca se vuoi spiegare. Tente. E voglio e forza e verità. Si manda amore più grosso ancora. E a così si solo tu. Poesia, io ci credo ancora. Tu fai male, tu fai male, ma nessuno se ne va. Io tengo sangue 081, si mi muore per sta città. Pure si non mi ha cartolina, per l'anno di papà. Ma che forza pure la sfortuna, si affitta da una casa qua. Mi si è stato con la paura, e chi va bene è poca gna. Chissà si Dio sta ancora qua. Si è cagnata scela, sbatto cuore in un rumore, faccia cagna con un ore, giovane creatura, senza amore. Io tengo sangue 081, saccia dice la verità, contro un male non sono nessuno e niente posso fare. Affettuosamente ai maestri di festa, famiglie Napolitano e Adrianopoli. Fermati un momento, dimmelo chi sei, unica guerriera, non ti di mai, prova un po' d'amare, e amati di più, non è sempre uguale. Lui non c'è più, è un passato da bruciare. Torna ad essere di nuovo ancora tu. Sembra che si vuoi di dolce. Io non voglio amare, solo libertà. Sono chiuso a chiave, ci resterò. So di farmi male, male non mi fa. Voglio stare sola, così mi va. Non trovare più parole, sono un muro che non crollerà. Fantastica tutti! Respirare ad occhi chiusi, prova a farlo anche tu. La mia ragione si farà sentire. E ciò che conta non c'è niente di più. Ci sei ma non ci sei, non cambio ed è per davvero. Ragioni non ne hai, prova a soffrire anche tu. Perché star male, bugiardi come la luna. Noi siamo ancora qua. Stile Forino, stile Forino. Famiglia Forino, solista facendo un macè. E scolibri e cervella che si cor. numero uno. Ma che rinda la famiglia fuori, sono tutto numero uno. Pure chi va il tuo carrello. Pensando. Allora un saluto allo staff Fratelli Farino, official page, official page, troppa pagina di Facebook, guai, capisci a me, troppo, gira! Papà, di sopra, papà, di sopra, guai, chi stanno fai il secondo punto? I problemi non ne tengo. Canta insieme a chi voglio, la vita oggi diverto ancora, ma che uccidi è tutta vita mia, e cosa risaputo ormai, con me portare l'allegria, con mio sforzo non è mai simpatia, è diversa tutta quella capacità. Grazie ragazze, grazie. Ci so stare, una paranza, una musica da supportare. Cercami perché non mi faccio mai, non è mica inutile. E scusa se è banale, capo a me non vale mai. Mi sapeste ci so stare, una paranza, una musica da supportare. Diciano comitate, si vi chiama, a Gaetano si papà. C'era il tuo primo attore, con un ciglia farla fa. E su questa canzone, ragazzi, stile fantastica. Sensazione, ma avverto come se scoppiasse il mondo adesso, adesso, adesso, è tutto un po' scoppato, niente ormai ci dà allegria, è tutto programmato. Chiaro, come neve che si scioglie al sole, stai bagnando tu le nostre vene, e continua a dire che va bene, e la noia ci fa stare insieme, a distruggere le nostre sere. Ma continua a dire che va bene. Senza un lamento, ti sorrido ma nascondo il pianto. Noi vicini ma lontani dentro, è la voce muta di un tormento. Ferma il tempo in ogni suo momento. Io non so perché restiamo insieme, ma tu dici ancora che va bene. Sali pronto Custinelli, tu c'hai una mano un macello. Signori, ascoltate bene. Questa è musica pura, con Brigio Compagni allo stato puro. Famiglia Napolitano! Cerate, stai! Cerate, stai! Tette! Gira! Voglio rugiare fuori te! Piano ragazzi! però così oi, vai generale, vai! Forino è un'altra cosa! E questa canzone, questa inedita, io ringrazio Armando Della Pia, a Covella Lozero, fratelli Forino, tutto lo staff, la famiglia Forino, che questa la dedichiamo a tutti i bambini di Nola. Viva la festa dei Gigi, viva l'allegria! Un soggetto, canzuno difetto, è troppo evidente, ma rimane il sospetto. Facimmo un giugno, però anche la vita la sa. Tutti che hanno, tutti! Tutti in festa hanno a sapere. Via! Via, via! Da Nola a Brusciano, a casa l'adora, per dire le spane, fino a perdere il giorno. Nascono buona, ma ormai l'ho fatta scamare. Io non mi ho trovato già. Gira! Voglio usare tutta vita mia. Viva Nola! E scemo più scemo, non c'è trovo rimedio. Ma chi gira, non capisce niente, tutto cosa muova da là. E musica buzzica, nessuno sa fa. Secondo te nessuno è buono e cosa fa? Sei scemo, voglio un mio di amore, e come per capire tutto va via solo da mamma mia, è forte della gente, la giamma una figlia, scemo più scemo sulle tese, grazie ragazzi, viva Nola, viva San Paolino. E come dice sta canzone, quello che provo per la festa non lo devo spiegare con le parole, ma col cuore. Paolino sta facendo un macello per tutti, calma, qua così mi fai fuori. Quello che sei per me, è inutile spiegarlo con parole, con le notte troverò, cercando nuovi accordi, nuove scale. No, no, no, tu non devi parlare, no, no, no, ah! Devi cantare, no, no, no, passo passo non è, senza te una festa mi è portando non è, senza te una festa non la penso non è, senza te niente ci posso che lavare. Quest'altra inedita noi la dedichiamo alla Paranza, alla fantastica, alla grande Paranza di Nola. Poi un di tutti avrei cattivi inedita. Simo tutte no, ha parlato bene, simo tutte no. Un giorno il suo punto, n'ha girato una spalletta fuori tempo, ma presente. E si dice sempre che io prima non mi importa niente. Ogni fatto strano che sta festa stai sempre comincia. È una cosa che ora va specificata, sentimi buona, si può bene a sta festa li affronti. Cigna sopra me, l'amore che non può, figlia una mamma che tutta famiglia da campà, sa fanno sacrificio, fa cerchè di verati, chi me ne ha guardata. E cigna sopra me, ben a desidera, passi una casa stiva di te sa che l'anima, e quando te domandano a chi può bene qua, evitato copiare che il canunzo fa non si sa. Notte magica senza logica ci ha mondata stasera, sei magnetica e lunatica, mi metto fuoco in dolore, fammi provare un brivido, fammi essere spogliato. Voglio già che stasera e piano piano passamo, tu porta signora, diciamo sempre muri senza ci pensare. la pace in mambo, l'amore sento come sta, ci battendo forte, su cuore non mi fa aspettare, a che tempo vola vola tu, vai pazzo perché sta musica, lascia po' fanno ancora. Ci pensa, la faci m'amore, amore, no, non ci pensa, più di notte e torna a passa. Papà, insomma, papà, insomma. Guagliù, messa si rifiuta e caccia, felice, può tutti vanno lì da voce. Generale, stai, generale, stai. Gira, ciao, ciao, felice. Anna Fibra, musicalmente, certamente. E come se va bene, genera, gira, gira. Allora noi balleggiamo, signori. Cotacatà, già sapete. Allora, spalletta a destra. Sapite? O tagadà, mi piace o tagadà? Noi ce ne andiamo a mezzo pazzo che dedichiamo a tutti! Presidente, vicepresidente, tutti! Stile fantastica! Mezzo pazzo cadenzato! Adesso adoreranno una volta sullo stand vado a curta tutta posso piacere a me figlio io godo. Posso scappare, tieni paura e sta bocca, tieni paura e sti mani, tieni paura e rimane, e mi dice no, no, tu non ti innamora, è colpa dell'età, è solo un'attrazione che col tempo passerà. Thank you. Questa è inedita che noi la dedichiamo a tutto il popolo di Nola, dallo staff, va bene? Un bacio, carnale carnale, vai giù, forza fantastica. Voglio avere che t'ambiente, non c'è sa chi ti biglietta, salvi da niente. O sai che tieni un problema, sai grave, e se il morale te può sollevare. Vieni a vedere chi stiamo ognuno, che di tutta non la sono, o vanno a salvaguardare. Salta a mezzo passo lanciato, ed è fantastico il mio tempo creato. Andiamo incontro a tutta quanta la città, cantata insieme a noi fantastica. Salta a mezzo passo preciso, e con l'arancio ti trasformi deciso. Voglio avere come da donna ci ferma, a che se tu non ci vuoi mai Forino, coppe spalle, odio a tutti oi. Pi, ho, pi, ho, o botte spalle. l'inferno che mi può bruciare. Quando ti dovevo salutare, siamo lontani, prima che mi trasferì dall'anima. C'è da vedere in te pubblicità, dinta tutte fino a dove ci sta. Chi s'innamora sapendo che è una storia assai difficile. Trema quando t'avvici, sola si cammina. Quella ragazzina all'improvviso come femmina, già pronta a spaventare, come un brivido ti desidera. Pure quando dico no, parla solo la mia mente, mentre il cuore lo impavaglio, per chi può parlare. Tu mosi femmina, meglio una femmina, che può distruggere, stai per vincere. Ad forza capita, la mia mente perderà, non serve a niente, sa sa faccia, come lo vince, può parlare. La serie 9, 11 e 2012. Decidi tu, Ronaldì, un bacio, Felizio numero 1. Ma non tiene niente a giudicare. Effetti, occhio, mi sa canzone. giochetto che mi fa. Pisciava la comanda tu, si dei numero. Forza fantastica. Si chiude un ciclo di tanti successi, con l'avvento di formule per i progressi. Ma il tuo di escamotage, che se dai, è figlio di generale Stai. Generale Stai. È storia di un recente appuntamento, non ci giovosa cuore, saltando la gente. Mo faccio migliora, impurla, Gigi un altro stile prenderai. Guardi sono tempo! Guardi un suo stile nuovo, è bellissimo! Sto passo nuovo, effetti fantastica, si dei numero uno. Tutti! L'arancio meccanico deve colpire ancora. Avanti! Danza, sistema generale, non posso mai scordare, ma adesso ci sei tu. Figli di una squadra che riuscirà a lasciare il timbro generale a vita nell'eternità. Grazie a chi pulle ci crede, il mio sacco si esplode, adrenalinico. Solisio numero uno, forza! Potenza e cuore, andiamo a posare, sicuramente.